All'House of Bach si tiene una cena molto speciale, dove si discute delle prossime iniziative e si parla con i nuovi amici che ci vengono a trovare. Da questa tavola passa tutta la buona energia della città. Benvenuti anche a voi alla cena del regino. Ragazzi, bentornati alla cena dei regini. Quanto entusiasmo, questa settimana è fondamentale, è stata una settimana fondamentale. Innanzitutto ringraziamo le persone, oltre 100 visualizzazioni nella prima ora del video della cena dei regini numero 43, quindi un altro applauso. Cosa avrete da guardare in questa cena? Fate bene, continuate, perché è giusto che sia così. Ragazzi, una settimana fondamentale perché abbiamo registrato la Gilda degli Artisti, questa nuova idea, questo, come abbiamo detto, l'istituzione, che dall'idea diventa istituzione, quindi la possibilità di organizzare più eventi, cose ancora più grandi, più belle, più meno soldi, però ripeto sempre, però comunque organizzare cose più, cercare di movimentare Reggio, lasciamo stare. poi ti dico, continuano i lavori di rifinitura dell'house, perché comunque la stiamo rivedendo, la stiamo sistemando, ancora mi mancano i quadri, queste cose qui si devono sistemare, e poi il workaround che sta andando avanti, è iniziato settimana scorsa, già sono arrivate le prime mail, cioè i suggerimenti per migliorare il regolamento sia a livello di live che a livello di gioco di ruolo da tavolo. Esatto, perché noi abbiamo scritto questo regolamento che permette a tutti di giocare a giochi di ruolo, e ogni una volta l'anno per un mese io permetto a tutti di mandare le tue idee, tu che sei a casa, che hai giocato all'Ars, che non hai giocato all'Ars, che ti è piaciuto o che non ti è piaciuto, perché non ti è piaciuto, vabbè, non ti è piaciuto. Puoi mandare la tua idea e dire: io la cambierei qui, così, col dì e via dicendo, fallo assolutamente. Alla fine di questo mese raccolgo tutte le migliori idee e scriverò ancora una volta il miglior Ars possibile anche per te, che non ti è piaciuto e cambierai presto idea. Quindi ragazzi, prossimi appuntamenti per queste settimane, settimana prossima. Già questa domenica abbiamo la Mystery Night, che è prossima, e poi la domenica successiva invece abbiamo il Towel Day, che appunto il... Ma non è solo il Towel Day! Come stai dicendo, oltre al Towel Day c'è anche il... Hai capito, perché lui sa tutto. Ne approfitto per interrogarlo. Perché oltre al Towel Day c'è Camelot. Perché bisogna spiegare anche una piccola cosa. Siete tanti che vi siete iscritti alla newsletter, tanto che la newsletter stessa ha qualche fatica a mandare tutte le email. Quindi comunque diamo tutte le informazioni in maniera che chi, come ad esempio Luca, non ha ancora ricevuto la mail, perché sta elaborando tutte le email, sono oltre 3.000 indirizzi. Quindi domenica Mystery Night. Mystery Night che cos'è? Una serata in ambientazione questa volta moderna, durante la quale noi proponiamo un mistero da risolvere e i vari giocatori interpreteranno un loro personaggio, come ovvio nel gioco di ruolo, e dovranno risolvere questo mistero molto particolare. Il titolo è veramente inquietante. Ma io te l'ho detto, secondo me ci stanno spiando le associazioni. La CIA tipo sta cercando. Assolutamente. Perché come si costruisce una bomba atomica? Scopriamola assieme durante questa Mystery Night. C'è già piccolo chimico che ci sta lavorando ogni sera per capire... Gli abbiamo comprato tutti gli strumenti adatti e quindi voglio dire, è fantastico. Alla fine, se la serata va male, lo rivendiamo al mercato rionale del pesce. Vorrei aggiungere un'ultima cosa riguardo a Mystery Night, che è comunque una sessione che finisce la stessa serata in cui comincia. Sì, una cosa rapida, veloce, perché poi... Soprattutto che è un gioco di ruolo e non una caccia al tesoro. Non è una caccia al tesoro, è un gioco di ruolo, quindi vieni, interpreta, investiga e divertiti. Settimana prossima abbiamo detto il Towel Day dedicata a Douglas Adams e le sue opere praticamente, quindi i giochi e via dicendo. E poi Camelot, serata di improvvisazione teatrale, gioco di ruolo in ambientazione fantasy. C'è altro? No, mento pensino. Basta? C'è quel pesce in frigo e... Così, cioè, a me sembra poco, però sembra poco. Vabbè, inventeremo qualcosa nei prossimi 5 minuti. Intanto beccatevi questa pausa di musica alla grande e noi torniamo tra poco. Ragazzi, la cena del RG. Un applauso, no? Bisogna riempire questo blocco, perché cosa succede se mi invitano a intervistare una band metal, è abbastanza importante, anzi importantissima, perché è abbastanza, che è venuta da fuori città, suonato qui per una serata e io ero nel backstage a comunque fare un paio di domande. Ragazzi, è successo veramente di tutto e lo scopriamo in questo video che parte adesso. Intervistiamo due paroline con i Tales of Deliria. Vai col video, un delirio praticamente, quindi... Ragazzi, bentornati alla cena dei Reggini, con noi questa sera i Tales of Deliria. Dal 2003 sono attivi già con diversi album e si presentano adesso con una nuova line-up rinnovata dal 2013, quindi recentissima. Iniziamo a introdurvi con una breve descrizione del vostro progetto musicale, la vostra musica e quello, come la descrivereste e come parlereste del gruppo. Ciao a tutti, sono Vittorio, il cantante di Tales of Deliria. Finalmente siamo a Reggio alla cena dei Reggini, finalmente riusciamo a fare questa intervista stasera con il caro Black. Non l'ho neanche pagato per dire questa cosa. Penso un po'. Non ha ancora pagato. Come si diceva nell'introduzione, siamo una band attiva dal 2003, originaria di Bari. Originaria di Terlizzi, in provincia di Bari. Adesso sostanzialmente attingiamo da tutta la provincia barese, nonché quella tarantina, con il nuovissimo innesto Valerio, che stasera ha il primo concerto con noi. E sostanzialmente, lasciate di prenderlo, ci mancava uno tatuato e quindi abbiamo preso un tatuato. Avete provveduto alla grande? Sì, è ben coperto su tutte le braccia. E la band nasce nel 2003, abbiamo all'attivo un demo dal nome omonimo Deliria. La band nasce con il nome di Deliria nel 2003. Nel 2006 abbiamo pubblicato il nostro primo full length Calling from the Abyss e nel 2011 abbiamo pubblicato il nostro secondo full length su etichetta To React Records dal nome Beyond Line. E siamo appena usciti nel 2014 con il nuovo singolo Formalin. Proponiamo un death metal di stampo melodico con influenze trash e non facilmente classificabile. Ora, agli ascoltatori del concerto di stasera, insomma, il giudizio sulla nostra musica, sulla riuscita. Diamo subito un riferimento internet a chi è incuriosito e vuole venire a trovare sul web, così può ascoltare qualcosa, cercarvi. Allora, sicuramente come semplicità di usufrutto proponiamo la nostra pagina da Facebook, facebook.com Tales of Deliria Official, e stesso indirizzo su YouTube. Potete ascoltare tutti i nostri pezzi su youtube.com Tales of Deliria Official. La band nasce col nome Deliria, ha questa comunque gavetta musicale. Nel 2011 possiamo definirla una svolta, l'arrivo dell'etichetta discografica, quindi ingaggiati sotto questa etichetta discografica. Che valore ha, che importanza ha per un artista il sistema musicale nell'era di internet comunque? Non è facile, nel senso che sostanzialmente l'artista o la band in questione deve metterci tanto del suo. Un'etichetta può significare tanto come può significare molto poco. Può significare tanto se si entra in un giro di major o etichette un po' più alte. Quando si tratta di etichette indipendenti, insomma, molto del lavoro deve essere fatto dalla band stessa, che è quello che facciamo noi. Ci piace tanto girare, ci piace suonare, quindi un certo sacrificio da parte della band ci deve essere, un certo lavoro proprio di booking fatto dalla band stessa, insomma. L'etichetta può certamente aiutare, ma non è un punto d'arrivo. C'è da dire comunque dal 2011 per noi è anche cambiato un po' proprio l'approccio alla musica, al palco, abbiamo condiviso palchi abbastanza importanti su Suolo Italiano con band di calibro superiore, quindi sostanzialmente più che una svolta data dall'etichetta c'è stata proprio una svolta data dall'autocoscienza di dove si stava andando, quindi una preparazione maggiore e un approccio proprio diverso in termini di palco. Certo, voi tra l'altro avete diverse esperienze di live, ma crescete nell'ambiente comunque che è la scena musicale italiana nel vostro contesto. Come definiresti la scena musicale italiana e come secondo voi potrebbe crescere? Cioè qual è l'elemento che permetterebbe ulteriormente una crescita in questo genere? Allora, un elemento che sicuramente permetterebbe una crescita è la collaborazione. La collaborazione tra tutti, oltre appunto che Militare nei Tales of Deliria e nei Due Fall, che è l'altra mia band, a Bari, con Saverio anche e Flavio, siamo organizzatori del Metal Symposium, che è una rassegna mensile di metal underground, nella quale cerchiamo di dare spazio all'underground italiano, proponendo alle band che vengono da fuori uno spazio nel quale si possono esibire davanti a un pubblico partecipe, interessato e attualmente educato proprio alla tipologia di concerto che andiamo a proporre. Se in ogni città italiana o magari in ogni capoluogo anche di regione ci fosse qualcosa del genere, si instaurasse proprio una collaborazione fra in termini underground italiani, questo potrebbe sicuramente portare a una grossa crescita del movimento, anche per le nuove generazioni, nel senso se un ragazzino che ascolta, non so, gli Slayer, trova il Metal Symposium nella sua città, anziché abbandonare questo ascolto dopo un anno e iniziare ad andare in discoteca, magari è proprio viene ai concerti, insomma, è una linfa che si rinnova, insomma. Questo secondo me quello che si può fare. Importantissimo, quindi occasioni, diciamo, per condividere la musica. La band Tales of Deliria nasce comunque nel contesto barese, che è un po' simile a quello originale, cioè un sud Italia che con i suoi pregi e i suoi difetti. Se voi vogliamo immaginare Tales of Deliria sindaco di una città italiana per un giorno, qual è è una domanda impegnativa, ragazzi, lo so, specie in questi tempi. Qual è la prima cosa, comunque i primi provvedimenti del sindaco Tales of Deliria alla guida di una città italiana? Io metterei piste ciclabili ovunque, però questo va al di là. A Reggio non c'è andata bene con le piste ciclabili, ma un po' loro non lo sanno. Insomma, io andando un po' fuori dal contesto musicale, diciamo, in particolare al sud Italia, avrei un occhio di riguardo proprio per l'ambiente, gli spazi verdi, per le persone, lo spazio proprio vitale per le persone. Questo è quello che è, se vogliamo andare un attimo fuori da quello che è il contesto strettamente musicale. Poi contatto con l'altro. Sì. Saverio, tu date le tue condizioni di salute più ospedali, sicuramente accesso questo qua, sì, eccolo qua. Vuoi fare una tosse in diretta? Perfetto, ce l'abbiamo per i nostri amici della Cenere. Fantastico. Prossimi appuntamenti in cui vedremo i Tales of Deliria, in cosa siete impegnati attualmente? Allora, uno è proprio vicinissimo, sabato prossimo a Modica con Evader per la Metal Crew Night. Avremo prossima settimana, venerdì, sabato e domenica, saremo a Chieti, Campobasso e Milano per altre date. Il 24 maggio a Molfetta in provincia di Bari per il San Metallo, e il 28 giugno stornare a provincia di Foggia con il Metal Circus Armor con Destruction e Master. Questo è quanto. Impegnatissimi sti ragazzi, impegnatissimi. Vi ringraziamo appunto per il tempo dedicato a questa intervista, tra inconvenienti e non. E ragazzi, loro sono i Tales of Deliria. Adesso un piccolo spazio musicale e ritorniamo tra poco alla cena dei Regi. La tienes que bailar, no. ragazzi da Cena dei Regini, bentornati. Il back.it, dovete cliccare la Cena dei Regini per ascoltare le puntate precedenti e per guardare tutti i video di tutte le puntate. Perché privarsene poi? Cioè, c'è la versione video, fantastica, voglio dire, naturalmente. Siamo fantastici noi. Ma adesso il momento esatto, dopo questo, questa parentesi patetica, è il momento di notizie dalla strada, quelle più curiose e più strane, che per non fare perdere tempo della tua vita a cercarle, perdiamo tempo noi e le commentiamo assieme. Stai là. Sada Bike. Sada Bike è il nome della biciclettina ideata da questo tizio italiano, Gianluca Sada, che praticamente ha la particolarità di essere una bicicletta senza raggi e quindi può essere facilmente trasportabile. Pensa tu che ha l'ingombro di un ombrello, quindi tu la richiudi, te la porti ovunque. Il telaio è leggerissimo, si può portare ovunque, quindi penso un italiano che ha creato qualcosa di eccezionale, perché comunque è molto importante. Tipo ad esempio un italiano moderno. Sì, cioè, andando nel passato abbiamo ben altre metri di paragone, però voglio dire, è carino perché tu hai la tua bicicletta, la porti in giro, l'ingombro di un ombrello, quindi... Andrea, sai cos'è una bicicletta? Vabbè, andiamo avanti. Lui si chiama Gregory Cloen, è un esploratore dei cassonetti, almeno si dichiara tale, perché sempre nel momento, diciamo, parlando di artisti un po' particolari, di inventori un po' particolari, lui è un artista che però dedica il suo tempo a costruire case per i senza tetto. Case per i senza tetto. Quindi lui che fa? Va in giro nella spazzatura, raccoglie le pedane industriali, queste cose, le assembla per fare le sue opere, che sono queste casette, e le regala ai senza tetto. Pensa che bello, mette anche le ruotine in maniera che sia, la casa sia amministrabile, cioè dal senza tetto, se la porta in giro. È una specie di roulotte, però in versione più ecosostenibile, perché comunque è molto, molto accessibile. Ti giro la casa quando esci di casa. Cioè... Da pensare di questi tempi, voglio dire, un monolocale così che ti porta in giro. A Parigi una cosa del genere, la paghi a morire. Già stanno nascendo i primi gruppi, gruppi di, come dice, esploratori di cassonetti, attenzione ragazzi. A voglia. Grande ragazzo, vieni a Reggio, abbiamo per te un repertorio. Vieni a costruire lo spazio. Vieni a costruire le migliori creazioni possibili. Ragazzi, passiamo al tema della tecnologia, quest'angolo che è molto importante nelle notizie della strada. È grande, grande fermento nel mondo delle console, ma anche nel mondo dei cani, perché è nata la prima console per cani. È come la PlayStation, oltre sia... Sì, la console per cani. Panda, no, cioè non puoi capire, si chiama... No, non riesco a capire. Pensa, cosa c'è di più bello del tuo amico a quattro zampe che sta là e gioca con questa sua console. Si chiama Cleaver Pet, ha i suoi tre touchpad e quindi il cane la può attivare sia con le zampe che con il muso. Fuffi, tu preferisci Scorpion o Sub-Zero? Sì. Beh, io ti metti là a giocare con... Dai, andiamo in giù a fare la TV. Aspetta che finisco di giocare a Tu lo lasci a fare... Perché? Expare, come si suol dire, nei giochi di ruolo online, poi al lavoro tranquillamente. È là che si dedica a fare queste cose. Beh, la console per cani, voglio dire. Non so che dire. Io la trovo fantastico, perché comunque, tra l'altro, toccandoli nella maniera giusta, se si va a programmare, la console farà anche apparire un croccantino come premio. Io me ne vado. Ma non capisco. No, gli dà proprio il croccantino. Ma quindi non è piccolo. No, quello sarebbe sadico. Ma soprattutto sarebbe pericoloso per la televisione. Questa là, lecca. Questo aschi infiato. No, ragazzi, tu lo puoi fare giocare. Se lui capisce la sequenza di gesti che deve fare, gli spunta un croccantino. Che se non mangia. Come in Giada. sono riuscito a creare anche i nerd, i cani nerd. Sì, certo. Spiegagli. Spiegagli. Spiegagli il concetto di giochi e via dicendo, era un po' difficile perché il cane non farebbe, non sarebbe mai ore davanti a una televisione a giocare così. È morto qualcuno. Era eccitato perché vorrebbe il è il fermento, è il fermento di andare a casa a comprare la console per i cani. Quando tu vai là a giocare ti appare il croccantino, il cane comunque è invogliato a giocare. Però semplicemente è un cioccolatino a posto del croccantino, lo so io. No, Panda. No, direi di no, dai. Poco ti diventa il cane nerd. Vedi Panda per te. Invece di fare wow, ti fa ass. Fatelo, fatelo. Programmiamolo un'applicazione per questi cani. Facciamo l'ass per cani. Ragazzi, ma altra grande invenzione di questa settimana nel mondo della tecnologia è il Birdly Oculus Rift, cioè il simulatore di volo per uccelli, cioè di volo di uccelli per umani. Ma dopo il cagnolino non è un cagnolino con l'Oculus Rift che fa così. A volte non ho parole neanche io di questa persona. Perché fanno visualizzazioni, non si può dire. Ragazzi, per le Oculus Rift, cosa vuol dire? È un lettino che ti permette di metterti a pancia sotto e a mani a braccia aperte, e tu puoi effettivamente stare là a ravanare. Io spero che la persona che non... qualcuno ha così. Appunto. Non lo vedi nemmeno perché c'hai il secondo. No, allora io sto immaginando questo tizio nudo sul letto, fa faccia in giro e fa così con gli occhialoni giganti in faccia e urla sto volando. Perché è nudo? No. Perché è la droga. No, è la verità che l'hai detto soltanto perché lo manterrai qua dentro. Grande successo. Altrimenti comunque questo lettino permette di stare là a simulare il volo con l'Oculus Rift, che ti dà quella sensazione visiva, e addirittura un ventilatore davanti che ti spara effettivamente non solo il vento per come dovrebbe essere, ma anche esattamente gli odori che fanno parte dell'esperienza del volo. Odori. Ah, quindi moscerino. Comunque, sarà la versione 2.0. Gli odori sono. C'è anche la. C'è anche la versione seria di questo col tappetino su cui camminare per. Con l'Oculus Rift, ovviamente, per giocare i giochi in prima persona. Sì, ma se tu puoi simulare il volo di uccello, voglio dire. È meglio. Permetterti il ridicolo è già il massimo. Uno dei sogni più primordiali dell'uomo è appunto. Sto volando! Esatto, sto volando, mamma, guardami. No, questo non lo mai perché è molto imbarazzante. Però comunque grande successo per questa cosa, che tra l'altro realizza un sogno atavico dell'uomo, il volo. Infatti. E quindi comunque ha preso in pieno. L'idea è bellissima comunque, questo sì. Solo che immagino quella persona, come ha detto Andrea, Valentino. Ragazzi, non andate sempre a cercare il pelo nell'uovo, come si vuol dire. Va bene così, la piuma nel lettino. Perché questa è la tecnologia che funziona, però a volte la tecnologia è usata in maniera sbagliata. È il caso di una fabbrica di formaggio russa, allora hanno una grande storia. Hanno fatto il famoso formaggio. Quale? Esatto, quale? Ho fatto il famosissimo formaggio russo. Però deve chiudere perché gli impiegati hanno avuto l'infelice idea di farsi un bagno nel latte e di pubblicare la foto sui social network. Quindi è arrivata sui social network la foto di questi tizi che hanno preso la vasca con latte per fare il formaggio, si sono tuffati dentro e hanno fatto questa selfie di gruppo che ha sconvolto la Russia, a partire ovviamente dal proprietario. Ma come mai? Non si è mai riuscito a risollevare la sorte di questa società. Tu pensa, hai creato una grande fabbrica di formaggio russo, sei lì a consultare le notizie tipo da casa tua, apri un attimo Facebook per vedere l'ultima squinzia con cui uscire questa sera, e lui, che diavolo è questa cosa? Miei operai del latte? questa grande sorpresa, questa grande sconvolgente. Di cosa erano fatti i pezzi? Spero di qualcosa di pesante. Invece non gli dice niente, però loro hanno dato le giustificazioni ovviamente palliative e la fabbrica sta chiudendo. Stiamo cambiando latte per vodka. Vodka al coppo. Dai, non si può, cioè... Perché? Ma non sono puoi... russi, i russi non si possono divertire. Ma questo è razzismo, vero? No. Perché? Loro hanno perché anche si... i loro... Più che altro, sì. Dai, non si... Cioè, non puoi farti il bagno nella... Però scusatemi, quando si fa il... Cioè, si già nel... È vero. Sì, cioè, il mondo, manco di lì, si non c'è l'HCCP. Hai ragione. Cari uomini russi, guardate quel film con Celentano di qualche anno fa. Ormai lo devono fare con le buste. Ma tutti sono i piedi. Adesso devono farlo con le buste obbligatoriamente. Hanno delle specie di buste di plastica per evitare di... Ma il problema è che in quel periodo non c'era Facebook, per poterle forti. Infatti, era quello. Perché poi le persone non guardavano, quello, non avevano stato. Il problema dell'elettronica quello. Ma ragazzi, è che comunque è successo un caso mediatico su questa cosa essenzialmente, perché comunque dai, si potrebbe anche passare oltre, però la gente ovviamente non ne vuole più sapere quando un brand fallisce per piccole cose. Ma per un brand che fallisce ce n'è uno che sta nascendo ovviamente e viene dall'Illinois, l'Università dell'Illinois, che ha inventato il primo tessuto autoriparante del mondo. Quindi che succede? Che in un futuro neanche troppo distante tu avrai un tessuto, una maglietta eccetera che puoi tagliare e essa si ripara da sola. Ritorno al futuro. Questo ci piace. Vedi che non è una bella cosa, vedi che non diciamo solo fesserie in questa rubrica, cioè, cioè anche questa è una cosa bella. Quel latte era momentaneamente pensa, sì, rigenerano in maniera, come dire, ricreano i tessuti vascolari e le cellule staminali umane per ricreare il loro tessuto e tornare integre, quindi. Mi guarda roba per... Cioè nel senso adesso... Guarda... Negozi delle toppe. Sì, negozi, vestiti sempre perfetti. Se non nel senso vestiti fatti cellule viventi. Vestiti fatti di cellule viventi. Riprendono il concetto delle staminali per ricrearsi. Cioè nel senso che noi indosseremo animali praticamente a un certo punto. No, riprendono il concetto. Ho detto che indosseremo animali, stai zitto. Indosserai te stesso. Quello era Venom di Spider-Man, è un'altra cosa, ragazzi. Come togli la maglietta che ti intrappola. Andiamo avanti. Per persone come noi potrebbe essere utile andare al Momin Caffè. Conosci il Momin Caffè di Tokyo? È quello del... Chi? Il cioccolato? No. Ma qual è? No, il Momin Caffè è un posto molto particolare dedicato a chi ha il fastidio di sentirsi soli, tanto che quando tu vai a ordinare qualcosa e sei da solo puoi affittare un pupazzo che sta al tavolo con te, quindi te lo siedi davanti e ci parli. Che cos'è? Tra tutte le cose che fanno i giapponesi, questa è, è quasi quella... C'è una Yacht Club che almeno in qualche modo hanno una funzione di compagnia, ma però... Ma questa è principalmente... Questa è proprio triste, ma... Io non commento. Però no, non commentare. Comunque, immagino che avrai anche un dialogo con questo pupazzo e magari c'è una cosa che va avanti nel tempo, tipo te lo metti davanti al terzo quarto caffè. Ti vedo sgualcito stavolta. Stai bene? Tutto a posto? Bacchio. Cos'è quella smagliatura? Sì, ricorda che in Giappone si rispostano i pupazzi. Ne abbiamo già parlato e quella è... I cuscini, non i pupazzi. La cosa nasce cosa? I cuscini, però, i giochi. Sì, assolutamente. Il Momin Caffè. Quindi, notizie dalla strada, ilbacco.it per ascoltare le precedenti puntate, cena che c'è ilbacco.it per commentare quello che succede in trasmissione, quindi sembra molto importante in questa puntata in particolare. Ma io l'ho detto, sarà una puntata piena di colpi di scena rispettata questa situazione. Ragazzi, continuiamo. Ziona, un uomo dell'India, India, un villaggio indiano, ha 69 anni e lui veramente è molto felice nella vita, tanto che ha 38 mogli, 73 figli, 48 nipoti e 7 pronipoti. Poverino. In tutto ha creato un villaggio di 162 componenti. Sì, ma scusa, comunque sarà difficile il testamento. Non so come andrà a finire il testamento. Cioè, nel momento in cui in Italia comunque c'è un po' la fatica a progettarsi un futuro, eccetera, lui in India ha fatto un villaggio solo di suoi, della sua progenie. E pensaci, Panda. È orribile. Cioè... Perché? Immagino quando dobbiamo uscire sabato sera. Cioè praticamente sono tutti legati dalla famiglia, cioè da pezzo familiare. Questa è la resistenza. No, pensate a iniziare tutta la progetta, cioè quanti soldi di fare. Infatti lui ha creato questo villaggio che è praticamente indipendente, basato su queste cose. Le mogli che puliscono di qua. 38 mogli, tra l'altro. Poverino, sei grande, difficile tenere una moglie 38, esatto. Chissà che accordi che ha preso con queste cose. Soprattutto che accordi India. Che ha preso tra di loro le moglie, perché c'è una molta, diciamo, non è un colpo, non è un colpo di scena. Non è un colpo di scena, dici, cioè. No, intendo che si parlava che le mogli devono fare, diciamo, creare un po' di problemi. Figurati, sono molto chiusi mentalmente, quindi non ci sarà questa. E poi voglio dire, ha 168 discepoli, quindi un freno alla macchina staccato. Panda, non fare battutacce, perché andiamo avanti con un colpo di scena che viene dagli studios della Disney, perché è stato rivelato una cosa abbastanza scioccante. Secondo dei ricercatori statunitensi, hanno analizzato il cartone animato Biancaneve e i Sette Nani e hanno scoperto che ha un significato, questi psicologi, molto particolare, perché i Sette Nani rappresentano in verità i vari effetti che ha la cocaina sull'uomo, e Biancaneve rappresenterebbe la tossica, tra virgolette. Cioè, anche la Biancaneve, vedi che tutto torna. Ragazzi, i psicologi sono psicologici. Prendete nota: Biancaneve, cocaina, cioè, voglio dire. E loro hanno effettivamente collegato a ognuno dei sette nani il loro significato. Quindi, dalla prima sensazione, che è quella di spossatezza, quindi quello che sarebbe cucciolo in italiano, quindi la spossatezza, eccetera, l'irritabile brontolo, perché poi ti salgono i 5 minuti perché hai speso tipo un. Ancora ti rendi conto, si vede quella brontolo, eolo che fa starnuti perché hai utilizzato, quindi gongolo perché sei nella fase più felice dell'esperienza, si vede, del trip, mammolo che significa schivo nella versione inglese, quindi comunque sei un po' ritroso e via dicendo, e poi dotto e pisolo che sono il senso di onnipotenza, dotto e pisolo perché poi collassi e molto probabilmente muori, ma quella c'è la strega lì. E la faccia della strega rappresenta la morte. Con la prima canale dei cartoni c'era anche una volta, c'era sul polo c'era una ragazzincina, se era la strega, la strega, la strega, la strega, la strega, insomma abbiamo avuto tra bomba atomica, Biancaneve e poi ci cioè come siamo cresciuti. Che esempi abbiamo avuto? Cioè, voglio dire. Vabbè, comunque quando bisogna per spostare quei pacchi di farina dietro di. Che me la stregava, per questo ce l'ha me la stregava. Non si sa mai, che dice, succede qualcosa. No, ragazzi, però è un altro interrogativo che la Disney lascia nei suoi cartoni. La Disney ha sempre lasciato parecchi interrogativi, infatti ci sono state varie persone che hanno trovato messaggi strani nei film della Disney. Ha pagato non so quanti milioni di dollari per non fare quello, il processo, vabbè, Bianca e Bernie, cioè, sì, sì. Che non c'è, ho portato io. Se andate proprio a cercare, ce l'ho io. Alla versione non c'è, c'è la cassetta, io per uscire non c'è. Con la cassetta non puoi vedere. Ha pagato una cifra immensa per non affrontare il processo per satanismo, non so che cos'è ancora. Sì, si vede. donna nudella. La Disney, ragazzi, bisogna dare delle immagini educative, ragazzi. No, pure c'è una simbologia massonica. Tu li lasci e vabbè, Disney, lasciamo stare, ragazzi. Non chiediamocelo che è meglio, non chiediamocelo. Ci sono piccole cose, mettiamo intanto il bollino rosso per restare in tema Disney, appunto, piccole cose che sono alla base del fallimento del rapporto tra uomo e una donna. Ad esempio, uno tra questi, i motivi cardine, quindi attenzione, prendete assolutamente nota, mai calzini durante i rapporti amorosi. Il calzino durante le fasi, diciamo, notturne creano grande divisione tra la coppia. Perché? Guarda, non credo che sia proprio quello. Indossare, comunque dà questa sensazione per un sondaggio di 4.000 donne alle quali è stato chiesto quali sono le cattive abitudini che agli uomini si possono imputare. Il calzino era proprio quello. Il calzino. Proprio quello, il calzino come pedalino, giusto? Il calzino. Dicono che è insopportabile questa situazione. Innanzitutto poi hanno continuato col narcisismo degli uomini che amano parlare solo di se stessi. No, dai, è questo, ci vi risulta, ragazzi? Gli uomini. No, quando sono le donne. È una guerra. È incredibile, lasciamo stare, non prendiamo questo discorso. Non percutiamo le A. Percutiamo le A. Non mi veniva il termine. Perché comunque. Quindi tra i vari problemi che scaturiscono poi dalla scissione della coppia c'è il calzino come cosa proprio imperdonabile nella mente di una donna. Perché? Parlare troppo di se stessi oppure anche chiedere piacere senza darne alla compagna, e questa è una cosa atavica, perché voglio dire, si sa che è da sempre imputato, vero Panda? No, questo sarebbe come io, non il calzino. Io non rispondo se non in presenza di avvocato. E pensa, tra le cose indicate anche urlare parole sconce durante l'atto sessuale. Vabbè, questo dipende più che, cioè, dipende dai gusti delle persone. Comunque ci sono pure. C'è chi piace. Ci sono per comunque coppie. Raccontaci quanto. No, vabbè. È vero, si segue il tipo di feticismo di poi. Raccontaci. Io questo sono fatto! Tu, tanto siamo solo noi! Siamo solo noi! Ciao, sono noi! È diventato funzionale! Cose che non si perdonano, ma in generale, dico, ce ne sono cose che non perdonate a un uomo. Io al mio ragazzo non perdono. Andrea, no, non è questo il momento. Ci sarà la rubrica per problemi di cuore e potrai intervenire lì. Cose che non si perdonano, no. Allora comincia a parlare. Non lo so, ma i giorni. In generale, ovviamente in generale, senza. Avete il momento di parlare. Hanno tutti quando un rapporto. Quando dice allora tutto bene, quando uno è completamente nervosa, dice allora tutto bene, benissimo, cioè, invece stai esplodendo. Quelle domande inutili, in quei momenti in cui vorresti strangolare il primo che passa. Chiaro. Perché a volte capiamo. Perché a volte quando una nonna ti dice che va tutto bene, non va tutto bene, quando ti dice che non va bene, forse non va bene. Vabbè ragazzi, in bocca al lupo, c'era che c'è fatto.it per scrivere quali sono le cose che voi non perdonereste al vostro partner, magari c'è qualcosa che veramente sta un po' sulle scatole. Piccolo spazio musicale e torniamo tra pochissimo. If you'd like to sleep, my dear, I'd rather be alone. Sit up till the morning comes, give you a wake up call. Thinking about the time we spent, I can't seem to recall. I read it in a book last night, it's nothing you forget. What is time just passing by somewhere in my head. Don't you let your head hang down, it only makes you fall. Oh, this is your wake up call. Thinking about the time we spent, I can't seem to recall. If you'd like to sleep, my dear, I'd rather be alone. I sit up till the morning comes, I'll give you a wake-up call. Don't you let your head hang down, it only makes you fall. Oh, this is your wake-up call. Your head hang down, it only makes you fall. I'm thinking about the time we spent, I can't seem to recall. Oh, oh, oh. Wake up call, wake up call, wake up call, wake up call. Ragazzi da Ciana dei Regini, il back.it per seguire le puntate precedenti o vedere anche le versioni video della puntata, perché voglio dire è tutto disponibile. C'è anche il back.it per commentare questa puntata assieme. Arriviamo adesso a una classifica veramente scottante, però c'è da fare un incipit a questa classifica. Non abbiamo i diritti per parlare di una ridente città del sud Italia, quindi non la possiamo nominare direttamente, quindi tratteremo questa sera della 10 lamentele tipiche del Regino Medio, il Regino Medio, che appartiene a una città per fortuna fantastica, che non esiste, utopica, che si chiama Reggio Calabria, scritto R-E-J-O, ovvio, K-Alabria, cioè Calabria. Reggio Calabria, questa città che non esiste, metto la parte, spieghiamolo soprattutto ai bambini, tranquilli, non esiste questa città. Ne parleremo adesso con 10 lamentele tipiche del Regino Medio. Alla numero 10, ragazzi, le tasse. Le tasse. Perché lamentarsi delle tasse? C'è il Regino che paga l'acqua ma non ha l'acqua. Paga la spazzatura ma ha la spazzatura. Dai, però qualcosa ce l'ha. Quindi forse è per compensare. Cioè in questa città fantastica c'è più spazzatura e meno acqua. Perché tu paghi per avere la spazzatura, però ti... per l'acqua. Ovvio. No, non funziona. Andiamo avanti. Ma tu prendi la spazzatura da strizzi, qualcosa esce. Le tasse, ragazzi, le tasse al numero 10. Diciamo, alcune sono cose giuste, altre sono così. Il Regino Medio passa molto del suo tempo a lamentarsi, è importantissimo nella sua giornata. Alla numero 9, il lavoro, con il mantra: tanto poi assumono solo i soliti nomi. È cioè, bella tanto poi assu- ma il Regino Medio è così, è disfattista. Tanto poi assumono i soliti. Perché provarci? perché riuscirci? Questo è il problema. C'è il problema del lavoro in questa città fantastica che non esiste, che si chiama Reggio Calabria, ed è un problema molto sentito. Immaginate una città del sud Italia che non esiste, che si chiama Reggio Calabria, e condividete queste cose. Assolutamente. Alla numero 8, questa fondamentale, augurarsi l'Armageddon per la rinascita della città. Con il mantra: ci voleva un terremoto che picchiava tutti quanti. Oh, cioè, il regino medio si augura l'Armageddon. Ah, come ogni notte. Se l'immagina lo spero. Sì, l'Armageddon in generale. In generale, anche cioè, i nordici speravano nel Ragnarok, quindi. E quindi può essere che abbiamo tradotto questa usanza, perché comunque, quindi l'Armageddon, la soluzione è quella definitiva, non c'è altra chance. Magari un virus di data. Ragazzi, la numero 7 è fondamentale, la totale conoscenza teorica ma non pratica ovviamente delle cose. Il mantra tipico: lo facevo meglio io, ma non mi metto a farlo perché poi gli altri parlano. Sicuro. Il regino medio. La scena del vecchietto mentre guarda i lavori, sì. Non lo so, delle fogne, le carte, si lamenta. Sì, anche. Lo facevo meglio a me tempo. A me tempo. Cioè, perché ha una conoscenza teorica totale, cioè lui la sa di qualunque cosa, lo dà alla tubatura. Però non vuole mettersi in mostra. Però non può, perché comunque la gente parla. Capiamolo, Bacco, non vuole essere sulla bocca di tutti, quindi. Certo, non si può. Ovvio. Ragazzi, alla numero 5, alla numero 6. C'è anche una cosa in cui credere, forse l'unica, cioè diciamo non è solo negatività, c'è una cosa fondamentale, una fede inarrivabile del regino medio. Non stai per dire il calcio, vero? Il calcio no, è l'unica cosa in cui credere, mantra al regino, è un tuo cuore, il sangue amaranto. Perché mi raccomando, cioè la città può anche andare in decadenza, questa città fantastica può, però la squadra deve essere sempre quest'anno la squadra. Regina, fantastica. La regina che è in serie Z. Ragazzi, succede, non è che si è sempre nel massimo splendore, però il regino deve avere l'occhio sul calcio, questo sport. Anche questo è il calcio, che ovviamente non è il calcio, ovviamente. È uno sport fantastico. Tipo i 15. Sì, in cui 11 miliardari in calzoncini inseguono un pallone ed è bello. Ed è bello perché comunque è bello. Provate a fare a casa se avete dei miliardari a disposizione. Con la vestitura strana, mi raccomando, funziona. Fatelo, perché voglio dire, è importante. Quindi il calcio è l'unica cosa in cui credere, la fede calcistica è al di sopra di tutto. Alla numero 5, ragazzi, totale sfiducia verso la giustizia. Il mantra: i ladri li prendono, ma tanto poi escono subito. Queste dicerie, queste cose. Cioè, la giustizia perché poi? Che città è? Non diciamo, le ragazzine, immaginaria, non esiste. Non immaginate città così. Io qua però si rischia di cadere spesso in un paradosso, perché c'è chi usa questo mantra e poi ci sono tutti gli altri. Oggi è tutto a caro. Perché ultimamente. Quindi comunque qualcosa. Perché ultimamente c'è stata un'accelerazione, diciamo, nei tempi. Nei come si dice? Nei determinati siti solo per vedere. Certo, è necessario. Lo conosco, non lo conosco. Ragazzi, alla numero 4, importantissimo, non è che si può vivere solo di una città fantastica di realtà, ci vuole anche le leggende metropolitane a scapito però della città stessa. mantra tipico. Lo sapevate la storia del ciccione che volò via da una giostra a pentimele? Questo è un esempio classico, cioè queste bisogna inventare. L'hai sentita anche tu questa ciccione? Siamo fermi un momento. Ottobre 1985, ed è un fatto reale purtroppo. Vai. È successo veramente, io ero un bambino, me lo ricordo. Fu chiuso tutto e c'era in tutta la zona, c'era una parte con la sala giochi, in questa famosa, diciamo, pseudo montagna russa fatta probabilmente da quattro malati ubriachi. E l'incidente ci portava per... Nell'85? Era ottobre dell'85, sì, me lo ricordo. Ma penso, là comunque, in quella zona. Sì, è vero. Purtroppo sbagliamo questo mito. Aspira, no, ma questo a cui ci si riferisce... Ma nell'85 questa cosa esce ogni singolo anno. C'è sempre, sì. No, ma soprattutto... È successo l'anno scorso, l'estate dell'anno scorso, praticamente sono andati a fare dei controlli assolutamente di routine su quelle queste giostre, ne hanno chiusa una preventivamente perché non so quale cavillo non rispettasse, ma neanche l'hanno chiusa, l'hanno semplicemente fermata dicendo risolvi questa cosa e basta. Nacque da questo che proprio in quel momento c'era stato un incidente prima, poi l'incidente era mortale, poi riguardava un ragazzo che era caduto da una giostra, poi alla fine la versione definitiva era che questo era un ciccione caduto da una giostra, caduto su un altro ragazzo, che l'altro ragazzo è morto e che il ciccione comunque era pezzo dei migliori cinema. Comunque quella che dico io è bella, è successo purtroppo, ha perso la vita, sembra, non avevo, però stiamo parlando di anni fa, che comunque erano altri tempi. Ma come hai detto tu, sembra l'incipit di un cinepetto. c'è tutta questa sceneggiatura particolare a base di ciccioni che funzionano sempre al cinema. Ma ragazzi, alla lunga caspita, con Jerry O'Connell in versione mostro. La numero 3, no, perché poi le leggende metropolitane solitamente sono, che ne so, il mostro di Loch Ness, sì, attira un sacco di turisti a Loch Ness, Elvis vivo, tanti a Grecia, no? Invece noi abbiamo invece queste il cose ciccione. Il ciccione che... inventarcene qualcuna però di un certo spessore, così almeno abbiamo visto giocare via un po'. Sì, una cosa del genere. Studiamola, ragazzi. Studiamola. L'altro giorno il poverino ha visto un panda. Un panda che volava così. Alla numero 3, ragazzi, questa è una notizia che veramente ha sconvolto la città, ma comunque anche l'Italia in generale. Al numero 3, il video dei finlandesi che buttano la spazzatura. Mantra, perché al nord la spazzatura la butti e quelli ti pagano. Cioè, c'è questo video di questi tizi che vanno a mettere le lattine in un distributore, cioè in un raccoglitore di spazzatura. Questa cosa ha scatenato la fantasia del Regino Medio, che è convinto che poi non ci debba essere poi uno che va a prendere quella spazzatura, che la va a lavare, che la rende riciclabile, eccetera. E quindi, nell'idea del Regino Medio, la soluzione a tutti i problemi è mettere questo distributore che raccoglie, non si sa bene come, la spazzatura. Grazie. Che poi è un'idea valida, non è che dico di no. Un disintegratore molecolare. E comunque le aziende finlandesi, sono aziende che puliscono la spazzatura per renderla poi riutilizzabile. Sì, in Italia penso che... No, in Italia abbiamo la spazzatura, ne abbiamo tanta anche. Infatti. E questa è la versione 2 della cosa. Si può raccogliere tipo fiori per strada. Oppure la dobbiamo vendere in Finlandia, senza pensare che poi per portarla in Finlandia un chilo di spazzatura ci deve fare. Partire dalla notizia dicendo il video, già avevo cominciato a tremare pensando a un'altra cosa. Oh, perché avete altri video da poter condividere. Ragazzi maliziosi come sempre. Alla numero 2, il mantra forse fondamentale, perché comunque negli anni è rimasto... forse ha perso comunque alla numero 2 il tipico entusiasmo, il mantra è a Reggio non c'è niente, che una volta era la frase poetica, a Reggio non è mai cresciuto il grano, invece adesso a Reggio non c'è niente, il che non è vero perché c'è l'autobac a Reggio, A Reggio. Perché a Reggio c'è lo softback. Ma anche là, a Reggio, c'è l'House of Black. Quest'uomo strano. Fatto cose strane, ha pensato... Beh, il back in sabato. No. Può essere, capiterà anche questo. Però comunque, c'è il tipico entusiasmo, a Reggio non c'è niente. Ma se c'è un concerto, una esposizione, una cosa eccetera, a Reggio non c'è? Niente. A prescindere, non c'è comunque niente per loro. Per i vicini non c'è mai niente. Ragazzi, al numero uno è notizia recente, ha sconvolto la vita di milioni di persone. Alla numero uno, la pista ciclabile. Avete visto la pista ciclabile, ragazzi? Perché? Cioè erano tutti ciclisti e io non lo sapevo. Improvvisamente erano, non solo tutti ciclisti, tutti professori esperti per capire che comunque quel dosso. Ma la cosa è ultimante che dopo la pista ciclabile, io ho visto aprire almeno 3-4 negozi di biciclette. Vedi? Che io non c'è so qualcosa. Neanche come faccio. Signori, signori. Tutti questi ciclisti. Signori. Via d'Aldo Moro. Una strada di 4 metri al massimo, metà è la pista ciclabile, fatta malissimo, e ci hanno messo i cassonetti della spazzatura in mezzo. Quello è fatto su Facebook. Ragazzi, ma è ovvio che è fatto apposta, cioè devi avere degli ostacoli per divertirti con la bicicletta. Perché tu mentre sei in bicicletta ti devi devi spattere con il cassonetto. Fondo benissimo. Anche su isola, oltre ad essere una pista ciclabile, motociclabile. Anche il motorino. Aspetta, perché il top ancora non lo abbiamo raggiunto, perché voglio vedere quello che succede con il primo incidente. Alla pista. Che succede? Che ci guarda, ci sarà il cuore. Non sanno parcheggiare, questa è un'altra cosa importante. Non ci sono parcheggi. Il mantra per questo potrebbe essere: sto solo 5 minuti. C'è un'altra cosa che non abbiamo citato. Che è uscito il nuovo GTA e la gente si è ispirata a quello con le capriole, le cose. E poi l'ultimo che ho visto è un di Jeep che ha parcheggiato vicino al Rect qui per di Reggio, che praticamente ha parcheggiato tra due alberi sopra il marciapiede accanto alla pista ciclabile. Questo ha preso tutto, cioè voleva proprio fermare tutto. Giustamente. Io devo vederlo uscire a un certo punto. altre cose tipiche di Reggio, tipico di Reggio. I negozi che aprono e chiudono il giorno dopo. È un dramma. I vecchietti che parlano del sindaco. Il vecchietto è grande protagonista dell'economia regina. Ormai è l'unico. Il vecchietto è Reggio. Da sempre adesso si è ritrovato protagonista. Ragazzi, c'è la chioccia del back.it. Immaginiamo assieme una città del sud Italia che si chiama Reggio Calabria, che non esiste, che è solo fantasia. Però vediamo quali possono essere i 10 aspetti fondamentali, le 10 cose da cambiare esattamente. La città di Reggio è grande, cioè ci può essere di tutto, e quindi possiamo andare a integrarla. 10, ma secondo me anche perché di 100 le persone le trovano. Cominciano. Okay, anche il caffè pagato, un grande classico del pagato. Ma questa parete di Gioiosa era esterno in un bar, c'è scritto non si può offrire. Ma sai che anche qua ormai anche qui, anche qui l'ho visto anch'io. Perché? Non si può offrire. Perché ogni qua sono quelle persone che hanno quei 100 euro, che sono con le ragnatele lei dice va bene, quella prossima volta la faccio io, non succede mai. No, avranno trovato qualche inghippo per poi alla fine non pagare, penso che sia questa la cosa. Ah, cioè, un po' offro, alla fine se ne scorre tutti. Esatto. E poi il gesto classico è con la mano al portafoglio. Aspetta, non esce mai il portafoglio, però. Aspetta che poi. Ragazzi, Reggio Calabria. Noi chiudiamo qua la puntata di questa cena di regine. Ancora una volta ci siamo spassati, abbiamo mangiato e adesso ci rilassiamo assieme. Facciamoci un applauso. Ringraziando i coraggiosi che continuano a seguire la trasmissione, che ci continuano a seguire nella newsletter che riprenderà a breve, risolveremo quanto prima. Assolutamente sì, ragazzi. Un saluto dal bucket a tutti i ragazzi della cena dei regini. Ciao.